Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Sapete che cosa hanno in comune una scarpa TOS, un salame felino da 2 euro, una Ferrari Enzo, un mobile IKEA, una confezione di Valium? Lo sapete? Pensateci un po'. Poi, se non ci arrivate, ve lo dico io. Ci avete pensato? Beh, la risposta è semplice. Una parte buona di questi oggetti che ho appena elencato, di questi strumenti, è fatta di chimica. La parte di chimica che pervade gli oggetti di uso quotidiano va dal 20% di un mobile IKEA fino al 50% di un'auto. Che sia una Ferrari Enzo oppure una semplice Panda, il 50% di un'automobile è fatto di chimica. La chimica è protagonista della nostra vita quotidiana. Non solo, è anche uno dei protagonisti della nostra industria. Il 15% del valore aggiunto della produzione industriale italiana viene dalla chimica. La chimica è un settore in fortissima crescita. Per il 2016 è dato un più 1,4% di aumento della produzione chimica. Ed è anche uno dei settori a maggior valore aggiunto intellettuale. Il 19% dei dipendenti delle aziende chimiche sono laureati. Eppure è come negato il ruolo della chimica nella nostra vita e nella nostra economia. Di tutto questo ne parliamo oggi per commentarlo con un consulente, banchiere d'affari ed economista come Stefano Di Tommaso della compagnia finanziaria. Buongiorno. Buongiorno. E con uno degli imprenditori di maggior successo nel settore chimico, Giorgio Basile, che guida un'azienda che si chiama Isagro e fa agrofarmaci. Buongiorno, dottor Basile. Buongiorno a lei. Allora, Basile, ma come mai la chimica è così centrale nella vita di tutti noi eppure non se ne parla mai? Beh, se ne parla poco perché c'è un problema, diciamo, di substrato culturale. Si è creato un po' direi all'interno della tematica di una certa cultura anti-industriale, c'è esasperata una cultura antichimica. Come tutte le cose nella vita c'è sempre una ragione, la ragione sono stati evidentemente dei problemi che si sono materializzati negli anni passati, però i problemi vanno affrontati e risolti per andare avanti, non devono certo portare alla demonizzazione di comparti, e questo purtroppo nei confronti della chimica è qualcosa che con cui dobbiamo vivere, ma contro il quale dobbiamo combattere, perché e dobbiamo combattere attraverso la corretta informazione. Ecco, vedo che gli agrofarmaci hanno fatto, all'interno delle varie specializzazioni chimiche, nel 2015 gli agrofarmaci, che è il suo settore, hanno fatto più 5%, gli erbicidi più 8%, i fungicidi più 1,7%. Insomma, il settore sta andando bene. E beh, guardi, come è noto ci sono alcuni miliardi di persone da sfamare. Come forse meno noto, sui 7 miliardi di persone, 800 milioni, un po' più del 10%, non mangiano abbastanza e sono in arrivo altri 2 miliardi di persone. Quindi, con buona pace, diciamo, di mode sempre rispettabili e da un punto di vista marketing anche di valore, da un punto di vista sostanziale occorre che l'agricoltura generi un quantitativo di resa per ettaro che non può che salire, e questo non può che accadere curando le piante, e noi il settore delle agrofarmaci opera per offrire mezzi di protezione e di difesa e quindi, diciamo, di tali da assicurare una resa per ettaro adeguata a fronte della domanda di cibo. Perfetto, ma Di Tommaso, secondo lei perché la chimica italiana continua ad andare così bene? Ma perché la chimica in generale ha subito un processo di disintegrazione verticale. In passato c'erano i grandi colossi dell'oil and gas che avevano costruito a valle grandissimi impianti chimici. Oggigiorno si va sempre di più verso una frammentazione verticale del settore, cioè ciascuna azienda è molto specializzata in qualcosa, e in questo gli italiani, dovendo investire meno e dovendo esprimere maggiori capacità di intuito imprenditoriale, di innovazione e così via, possono dire di più. Certamente, ma lei è un esperto di operazioni straordinarie e di M&A. Secondo lei nel settore chimico vedremo ancora in futuro M&A? Mi risponda a livello italiano, europeo e mondiale. A livello mondiale c'è una crescita verticale delle acquisizioni nel settore chimico, proprio perché quasi le uniche forme di innovazione, di ritrovamento di margini che mano a mano si estinguono, è attraverso l'acquisizione di aziende chimiche piccole e brillanti che hanno innovato in qualche direzione. A livello europeo e a livello italiano le notizie sono buone, nel senso che noi siamo, forse diciamo non è intuitivo, ma noi italiani e soprattutto noi europei siamo tra i primi investitori nell'innovazione chimica e siamo tra i primissimi operatori al mondo. L'Europa esprime più di metà di tutta la chimica del mondo. Certamente, e l'Italia è il secondo paese dopo la Germania, eppure si tende a non ricordarlo. Tra l'altro si pensava che la chimica italiana fosse morta quando è naufragata la Montedison. Il giornalista Turani fece un articolo per dire necrologio della chimica italiana, pace all'anima sua. Invece le ceneri della Montedison, sparse con accuratezza, hanno fatto da concime biologico per far nascere tante nuove aziende. Una è la Isagro di Basile, un'altra è la Novamont, quella che fa le famose bioplastiche, giusto, no Basile? Beh, molto giusto. Con questo non si può negare che sia stato un grande, grande danno la sparizione della Montedison, però la reazione a cui lei ha fatto cenno è accaduta. E questo per un motivo fondamentale, perché la chimica sempre più si stava spostando e si è spostata e si sposterà ancora verso le specialità, cioè i prodotti a comportamento, e sempre meno verso i frutti della grande petrolchimica, che ovviamente è meglio collocata a bocca di impianti che producono petrolio. Quindi diciamo questo spostamento era in essere e questo ha permesso che le ceneri a cui lei faceva riferimento dessero, generassero delle iniziative come gentilmente l'ho ricordato nel caso di Isagro. E anche nel caso di Novamont, che è un'eccellenza, un'eccellenza con cui Isagro collabora, e di questo ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Mi premeva sottolineare, visto che si dice che ci sono specialità ad alto valore aggiunto che tra l'altro non richiedono numeri altissimi, e visto che Di Tommaso diceva nella chimica italiana c'è molta ricerca e sviluppo, voi siete uno dei pochi a fare ricerca e sviluppo autonoma, pur avendo dimensioni non grandissime. Avete un centro di ricerca di Novara che so che è un centro di eccellenza. L'abbiamo inaugurato nella sua nuova veste e devo dire anche avendolo oramai al 100% di nostra proprietà, anche come struttura, come hard, come struttura fisica, laddove prima eravamo in affitto, e quindi siamo molto contenti di questo. Certo, noi investiamo il 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, e qui c'è un messaggio che forse è interessante per l'intero sistema produttivo italiano basato su proprietà intellettuale e che ha risultati dalla propria ricerca, e cioè il nostro problema, che essendo a livello globale in relazione ai nostri concorrenti piccoli rispetto ai grandi concorrenti, e invece continuando a fare ricerca innovativa perché abbiamo questa capacità che è un punto di forza nostro, per quadrare il discorso di dimensione piccola con i grandissimi investimenti necessari, si parla di 100-200 milioni di euro per sviluppare un avete nuovo prodotto. Ha fatto un modello basato, esatto, sul licensing, che ci spiegherà nella seconda parte della trasmissione. Adesso però una brevissima scheda sui numeri della chimica italiana. È un momento fortunato per la chimica italiana. Secondo uno studio di Federchimica, la produzione è cresciuta in valore dello 0,7% nel 2014, dello 0,8% nel 2015 e dell'1,4% nel 2016. Queste percentuali sono calcolate su un valore assoluto del settore nel 2014 pari a 52,3 miliardi di euro. La crescita è sostenuta soprattutto dall'esportazione, che nel 2014 è aumentata dello 0,7%, nel 2015 dello 0,8% e nel 2016 crescerà dell'1,4%. Grazie alla sua forte produzione di intermedi e componenti, l'Italia è il secondo paese europeo nella chimica dopo la Germania. L'Italia esporta il 19% della sua produzione chimica, più di quanto faccia la Germania, che esporta il 17%, e la Francia, col 15%. La Germania è però il principale cliente dei produttori italiani di intermedi chimici. Ben il 15,5% delle esportazioni chimiche, infatti, è destinato al paese di Angela Merkel. Va però segnalato un forte incremento delle vendite negli Stati Uniti, più 15%, in Cina, più 13%, e in India, più 20%. Ben il 55% delle imprese chimiche sono esportatrici, rispetto a una media nazionale del 21%. La chimica rappresenta il 15% del valore aggiunto industriale prodotto in Italia. Tra il 2007 e il 2013 il valore aggiunto della chimica sul totale della produzione è cresciuto del 6,1%, mentre il resto dell'industria manifatturiera è diminuito dello 0,7%. La chimica è l'unica industria che coincide con una scienza, anche nel nome. Il grado di specializzazione di chi lavora in ambito chimico è il più alto di tutti i settori, con una percentuale del 19% di dipendenti laureati, contro una media del manifatturiero pari ad appena il 9%. Del resto, il personale che le imprese chimiche impiega in attività di ricerca e sviluppo è pari al 4,2% del totale, contro una media del manifatturiero pari al 2,6%. L'incidenza delle sofferenze del settore chimico sui prestiti bancari, pari al 6,2%, è la più bassa di tutto il panorama industriale italiano. Le costruzioni, ad esempio, hanno sofferenze del 28,8%, la moda del 25,9% e l'alimentare del 14,8%. Rieccoci in linea dopo la scheda sui numeri della chimica italiana. Avvisi sul traffico e pubblicità, restate con noi. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Dove siete quando mi ascoltate per radio? In che modo mi sentite? Mandate una foto che racconti come ascoltate la radio, in che maniera ascoltate la radio. Mandatela a melog@radio24.it e noi la proietteremo in una notte favolosa in cui io deciderò che la radio è morta. Sabato 9 aprile a Milano, all'Unicredit Pavilion, dove parlerò dei miei 33 anni di radio. Dalle 19.30 alle 20.30. Siete tutti invitati. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi si parla del protagonista silenzioso ma importante delle nostre vite e della nostra economia, la chimica. Nella prima parte della trasmissione ho spiegato come la chimica rappresenti addirittura il 15% del valore aggiunto industriale italiano e come ci sia chimica in ogni oggetto, anche in quelli che si presentano come bio, come sani e come naturali. Stavamo parlando con Giorgio Basile, che è un imprenditore chimico, dell'importanza di avere centri di ricerca e sviluppo, del fatto che la chimica italiana sia basata sullo sviluppo di molecole a proprietà intellettuale e su specializzazioni molto forti. E lui ci stava dicendo che in Isagro non solo si sono specializzati per fare ricerca e sviluppo in modo autonomo, ma hanno anche saputo coltivare questa cosa, coltivare, termine giusto visto che parliamo di erbicidi e fungicidi, come un centro di profitto anche al di là di ciò che loro possono produrre, perché hanno messo su un modello basato sul licensing della proprietà intellettuale. Come funziona questo modello, dottor Basile? Ma guardi, funziona in questo senso: noi inventiamo una molecola, naturalmente ci lavoriamo, diciamo, un paio di anni investendo cifre, però insomma alla nostra portata, per verificare se quella molecola poi alla fine può diventare, presumibilmente senza certezze ma con una probabilità discreta buona, può diventare un prodotto o più prodotti. A quel punto noi, di fronte all'ordine di grandezza oramai per noi non approcciabile per sviluppare l'invenzione e sfruttarla adeguatamente nel mondo, le parlo di cifre non inferiori a 100 milioni di euro, a quel punto noi cerchiamo partner, cerchiamo terzi con i quali condividere questo sviluppo. Quando li abbiamo trovati, ma questa è la nostra nuova linea, loro naturalmente devono riconoscersi un valore iniziale per il fatto che hanno accesso alla nostra proprietà intellettuale. Ci devono riconoscere nel tempo, quando l'avranno sfruttata per la loro parte di sfruttamento delle royalties, e naturalmente godranno loro dello sfruttamento, ma noi ci saremo tenuti quei pezzi di sfruttamento che sono compatibili con la nostra dimensione. Diciamo, con una metafora molto banale, ma forse aiuta a capire. Efficace, noi inventiamo la ricetta, troviamo dei pasticceri che fanno la torta con noi ci teniamo e paghiamo per il pezzo di torta che è coerente con la nostra dimensione, ma su tutto il resto vogliamo un valore all'inizio riconosciuto e delle royalties nel tempo. Questo è un modello che noi seguiamo, stiamo seguendo sempre con maggiore convinzione, ed è un centro di profitto, e non è straordinario, è ordinario, perché lo facciamo concettualmente ogni giorno. A mio avviso è anche un modello per imprese non grandi, non grandissime, e che abbiano però alla loro base una capacità di generare proprietà intellettuale il cui sviluppo è troppo oneroso per la dimensione della società che genera la ricerca. Ecco, Basile, voi avete appena staccato un bel dividendo, che è una bella notizia, perché erano anni che Esagro non dava il dividendo agli azionisti. Il mercato ha reagito con entusiasmo. Ci vuole raccontare perché avete fatto il dividendo e che significato ha? Beh, il significato è che nel 2015 siamo tornati a generare profitto senza operazioni straordinarie, come invece per parecchi anni era successo nel passato. Allora, avevamo detto nella primavera del 14, quando emettemmo con successo delle azioni ordinarie e, diciamo, azioni speciali, quali sono le azioni di sviluppo, noi dicemmo che nelle nostre previsioni era riprendere la distribuzione di un dividendo dal 2016 sulla base del 2015, e siamo stati in condizione di onorare la promessa. Però c'è un punto ancora più importante: avendo emesso queste azioni di sviluppo che portano con sé un premio se c'è il dividendo, e beh, è coerente dare un dividendo con il premio per le azioni sviluppo. E infatti anche le azioni sviluppo, dopo l'annuncio del dividendo, sono aumentati sia il volume sia la quotazione. Sì, non è forse molto chiaro a tutti che in caso di condizioni, diciamo, di perdita di controllo da parte del controllante di Esagro, nel rapporto 1-1 le azioni sviluppo diventano, per statuto non modificabile, contendibili, diventano azioni ordinarie, e quindi oggetto di OPA, perché è importante che il mercato queste cose le conosca bene. Certamente, lo ricordiamo, lo ricordo anch'io, le azioni sviluppo sono una categoria speciale di azioni che in caso di OPA o di operazioni straordinarie si trasformano automaticamente in azioni ordinarie. Volevo però chiedere una cosa di Tommaso. Abbiamo parlato del dividendo di Esagro, che ha un po' mosso anche il mercato in suo favore, ma di Tommaso non è che siano molte le aziende industriali dividendose, come dicono gli esperti, in questo momento a Piazza Affari? Beh, sono poche in assoluto le aziende di Piazza Affari, soprattutto quelle quotate al mercato principale. C'è un bel fiorire di nuove offerte di pubblica sottoscrizione da parte di aziende piccole che vanno al segmento AIM, cioè il mercato delle piccole e medie imprese, borsistico, ma quelle quotate al mercato principale sono relativamente poche, e notoriamente quelle piccole devono soprattutto crescere. Certamente. Questo è un momento estremamente positivo per chi riesce a distribuire un dividendo, perché c'è una caccia al dividendo, quindi io prevedo che ci sarà un ulteriore interesse nei confronti di aziende come Esagro per il fatto che il dividendo è diventata merce rara. Quasi tutte le asset class degli investitori istituzionali sono prive di reddito oggigiorno, i tassi sono andati a zero e c'è il cosiddetto savings glut, cioè la congestione dei risparmi che affolla qualsiasi categoria di titoli vengano emessi. Le uniche attività che danno ancora un bel reddito sono le azioni, in particolare quelle che distribuiscono dividendo. Infatti ci sono dei fondi che investono nelle azioni che distribuiscono dividendo. Esatto, e per il prossimo futuro non si intravede nient'altro, addirittura c'è un'indicazione molto precisa da parte dei banchieri centrali che questa situazione di tassi che tendono a zero durerà fino al 2020, cioè ancora 3-4 anni. Ecco, insomma, Basile, vi toccherà distribuirlo sempre sto dividendo? Ma non solo, saremo felici di distribuire dividendo sempre, uno perché vorrebbe dire che faremo risultati positivi che lo permettano, ma è corretto, è giusto, è dovuto remunerare il capitale a sostegno delle nostre attività. Io so benissimo qual è la diatriba: usare i soldi per lo sviluppo, distribuire dividendo, mi è chiarissimo. Dico soltanto che una quota del profitto è fisiologicamente corretta che vada a dividendo. Nel nostro caso poi, avendo, ripeto, emesso azioni che hanno il premio, tu svuoti il premio se potendo distribuire dividendo non lo distribuisci. Quindi è nostra intenzione continuare. Senta Basile, ho letto da qualche parte che c'è nella sua azienda una sperimentazione che riguarda la xylella. Sì, stiamo facendo delle prove, però siamo a livello di prove. Poi voi avete anche fatto delle cose che riguardano il biologico. Avete questo filo coperto di feromoni che è un agrofarmaco completamente biologico che si chiama Ecodian, che è frutto di una collaborazione anche con la Novamont e che dovrebbe essere stato brevettato, o sbaglio? Sì, sì. Questo è stato anche registrato adesso. Quindi questo sì che è annunciabile ed è molto bello perché nasce dalla collaborazione tra due società italiane, ma per qualcosa da portare nel mondo, perché è così. Ed è anche bella una cosa, se mi permette, in questo caso questo è veramente, l'ha detto lei bene, un agrofarmaco biologico. Perché questa, come funziona? Abbiamo 60 secondi, ci spieghi come funziona sto Ecodian? Il mio grado di competenza tecnica è modesto, perché io ho studiato economia, quindi... Allora, mi cimento io, lei mi dirà se è giusto o sbagliato. L'Ecodian è un filo di materiale completamente biodegradabile e compostabile che viene steso lungo i campi. Su questo filo ci sono degli ormoni naturali che attirano gli insetti dannosi per le colture. Gli insetti sono come ipnotizzati da questi ormoni, che sono uguali a quelli delle loro femmine, e quindi non si riproducono più, non riproducendosi più non possono più fare i danni alle colture, e questo è un processo totalmente biologico che quindi non interferisce, non inquina e non turba in nessun modo l'equilibrio ambientale, che anzi ne viene rafforzato, giusto? Tanto complimenti, aggiungo, integro in questo senso: da un lato elimina degli insetti, da un altro lato funziona da monitoraggio della presenza degli insetti, perché non è sufficiente la cattura, è importante il monitoraggio che ci sono per dire quando bisogna fare il trattamento con prodotti chimici, con insetticidi, diciamo, i quali naturalmente però vengono applicati quando serve, capì? In assenza di questo monitoraggio si rischierebbe di applicarli preventivamente e inutilmente e sovrabbondantemente. Comunque il tempo è tiranno adesso, se no qui chiamano la security per portarmi via. Devo salutare i nostri ospiti, arrivederci alla prossima volta, dottor Di Tommaso. Saluti, grazie. Arrivederci, dottor Basile. Grazie. A presto. Di nuovo.